Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Anche in Europa, dunque, il tema è quello del bilancio. In una singolare inversione delle parti, a rischiare una sorta di shutdown dopo gli Stati Uniti e ora l'Unione Europea. Da ovest a est, dal nuovo mondo al vecchio continente, sembra proprio che il rischio paralisi faccia ormai tendenza in Occidente. Allontanata di un soffio l'ipotesi di default a Washington, tocca ora all'Unione Europea rischiare uno stallo nel suo bilancio. Il paragone è imperfetto, anche se a Bruxelles fa già tendenza. Tuttavia, un po' alla lontana, la situazione comunitaria rischia di ricordare quella americana. Il campanello d'allarme è scattato ieri, quando la conferenza dei presidenti dell'Europarlamento ha cancellato dall'ordine del giorno della plenaria in programma la prossima settimana la votazione sul bilancio settennale 2014-2020, una via libera necessaria per evitare di bloccare tutti i finanziamenti europei. Lo stop è arrivato in seguito al fallimento mercoledì dell'ultimo incontro negoziale con i rappresentanti degli Stati membri. Ad aggravare la situazione il fatto che Europarlamento e governi sono in conflitto pure sulla chiusura del bilancio 2013, che deve essere ripianato con un esborso di quasi 4 miliardi. E come se non bastasse, il Consiglio europeo si sarebbe persino rimangiato la promessa di concentrare nel prossimo biennio tutti i fondi destinati alla lotta contro la disoccupazione giovanile, come promesso a giugno. Sullo sfondo di queste contese, il commissario europeo al bilancio Janusz Lewandowski avverte: se il bilancio pluriennale non passa la prossima settimana, a novembre non ci saranno soldi per pagare le fatture della politica regionale comunitaria, dello sviluppo rurale e per gli impegni internazionali europei. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi, durante lo sciopero generale a Roma, nella manifestazione dei Cobas in piazza San Giovanni, proteste anche contro l'austerità europea, molti gli striscioni e gli slogan che inneggiano a Bruxelles. Bruxelles, da dove arriva intanto il nuovo programma dell'Unione per le imprese, chiamato COSME, raccoglie in larga parte l'eredità dell'attuale programma quadro per la competitività, varrà per il 2014-2020. Sul piatto ci saranno 2,3 miliardi di euro. Ad illustrarlo questa mattina il vicepresidente della Commissione, Antonio Tajani, lo ha intervistato Laura Bettini. I destinatari sono le piccole e medie imprese, è un pacchetto destinato solo alla competitività delle piccole e medie imprese, perché tutti i fondi destinati all'innovazione per le piccole e medie imprese sono nel grande pacchetto Orizzonte 2020, 80 miliardi per innovazione e ricerca. Qui invece saranno fondi destinati all'internazionalizzazione, al venture capital, che è uno strumento che negli Stati Uniti è un grande successo, aiuta molto la crescita delle piccole e medie imprese e si potrà cominciare a utilizzare dall'inizio del prossimo anno. A Roma ha parlato anche di pubblica amministrazione, insomma ha detto chiaramente l'Italia rispetti le norme o interverrò. Rientra anche questo nel contesto delle difficoltà delle piccole e medie imprese italiane? Ma l'accesso al credito è anche accesso al credito dovuto. Noi dobbiamo impedire che ci siano imprese che muoiono per crediti e non per debiti. Purtroppo molte imprese falliscono perché l'amministrazione pubblica non paga in tempi normali, arriviamo in alcune realtà a 900, a 1000 giorni, questo è veramente inaccettabile. Ecco perché io sono molto determinato nel far applicare la direttiva sul ritardo dei pagamenti europea entro 30 giorni, massimo 60 per alcuni settori particolari, con una mora dell'8% più il tasso di interesse, quindi oggi l'8,50%. Altrimenti procedura di infrazione, insomma. Ma assolutamente sì, per il pregresso non lo posso fare perché la direttiva sul ritardo dei pagamenti è entrata in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, però se non viene applicata per i debiti contratti dalla pubblica amministrazione dal 1 gennaio di quest'anno, e anche per come viene recepita la direttiva comunitaria nella legge italiana, allora se non ci sarà il rispetto delle scelte comunitarie dovrà aprire la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. L'Europa crede intanto ancora nell'allargamento, mentre avanza la candidatura dell'Albania, che conquista la raccomandazione per lo status di paese candidato. La Commissione europea propone di aprire la porta anche alla Macedonia, lode i progressi del Montenegro, suggerisce più dialogo tra Serbia e Kosovo e boccia la Bosnia-Erzegovina. Quanto alla Turchia, le porte non sono ancora chiuse, nonostante le preoccupazioni sulla libertà di espressione sollevate dagli scontri di piazza dei mesi scorsi, dice il commissario europeo per l'allargamento, Stefan Schüler. Se mi domandaste se vedo la Turchia come futuro membro dell'Unione, la mia risposta sarebbe sì, dice, lo sentite. Sarà un'altra Turchia, una Turchia passata attraverso l'enorme processo di trasformazione dei 35 capitoli previsti per l'adesione, ma sarà diversa anche l'Unione Europea. Unione Europea che vi aspetta con Europa 24 lunedì, come sempre, alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.